בלו טיים לייב. Popolo serale di Blu Radio Veneto, benvenuti sulle nostre frequenze. Questa è Blu Time Live, ai microfoni come ogni martedì sera Flavio Bilato, assieme a me Maurizio Calzavara. Allora, Blu Time Live che naturalmente vi offre sempre dell'ottima musica dal vivo. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Allora, anche questa volta abbiamo oltrepassato i confini del Veneto, siamo quasi internazionali, perché ancora una volta, poi capirete perché ho usato anche il termine internazionale, perché si canta in inglese questa sera, pensando all'America in qualche momento. Allora, noi diamo subito al benvenuto alla nostra amica che è venuta a trovarci da Brescia, lei si chiama Claudia. Buonasera Claudia. Buonasera a tutti. Buonasera Claudia, e allora sappiamo che tu sei qui da sola, ma dietro a te si nascondono i tuoi divani, li ho chiamati così per dire che il tuo gruppo si chiama Claudia and... Is on the sofa, ecco qua, quindi Claudia sul divano, se vogliamo tradurla così, un po' alla spicciola italiana, mentre ricordiamo che negli anni 60-70 potevano andare tipo Maurizietto gli Uragani piuttosto che gli altri, poteva essersi Claudia e i suoi divani. Benissimo, allora Claudia is on the sofa. Mi piace questa. Claudia is on the sofa, per presentarci questo ultimo lavoro che è uscito a maggio del 2012, ma ancora si sta facendo conoscere in giro, e in questa serata cercheremo di scavare a fondo a questo CD che si intitola Love Hunters. E innanzitutto Claudia, ci devi delle spiegazioni, perché Claudia is on the sofa rappresenta una parte del tuo salotto, però sì. Come in questo momento del mio salotto camera da letto, infatti il sofà è diventato un divano letto. Sì. Quindi si è tramutato in veramente sia zona giorno, zona notte, tutta la vita sul sofà. Perché è un posto tranquillo in cui pensare, in cui riposarsi, in cui creare anche, perché gran parte dei pezzi che sono nati per questo album, come per l'EP precedente, sono nati in casa, sono nati da sola sul sofà, per l'appunto. Mi metto seduta col gatto, suono un po'. Col gatto che ti accorda, che aggiusta le corde della chitarra. Sì. Che fa il sottofondo diffusa. Sì, quindi salutiamo anche il gatto, vogliamo dire il nome, se ha un Molly. Nome. Benissimo. Allora, che ci ascolta in questo momento, benissimo. Gli ho lasciato la radio accesa in streaming. Oh, fantastico. Allora, ricordiamo anzi che oltre alle frequenze tradizionali, Blu Radio Veneto vedrà la possibilità di ascoltare anche in streaming audio le proprie trasmissioni. Ricordiamo il nostro sito bluradioveneto.it, all'interno della pagina riservata a Claudia is on the sofa c'è anche la possibilità di cliccare per ascoltare la diretta audio, e quindi benvenuti anche gli amici che ci ascoltano su internet. Claudia è qui con la sua chitarra acustica, quindi avremo tempo di intervallare alcune canzoni da disco a quelle proposte appunto nella versione acustica. Allora, abbiamo capito il perché di Claudia is on the sofa, e adesso allora Maurizio, cosa dici che cominciamo subito a far ascoltare? Certamente, vorrei solo chiedere una cosa velocissimamente, proprio la descrizione che hai dato della tua musica, testuali parole: la musica che mi appartiene deve essere ampia, desertica, intima come un sofà. Ampia, desertica, intima. Perfetto. Americano al 100%. Beh, comunque non mi sembra molto, molto desertico il sofà. Visto no, assolutamente no. Ho appena citato l'amico gatto che gli fa spesso compagnia. Perché queste due sfaccettature estreme opposte, che però sono molto più vicine di quanto non si pensi. Anche perché sul proprio sofà la mente va e va a questi deserti e a queste sonorità più ampie. Bene, allora conosciamo insieme la musica di Claudia is on the sofa, presentando il primo pezzo, si intitola Same Stories. State un po' a sentire di cosa ci vuole parlare Claudia. Yeah. It's the same whole story. Every day is the same day. Nothing here, nothing can take. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Claudia is on the sofa. Abbiamo ascoltato il primo pezzo tratto dal lavoro che si intitola Love Hunters, si intitola Same Stories, ed è sempre la stessa vecchia storia, dice Claudia. Mi squilla il telefono e tra le telefonate che potrei ricevere, vorrei tanto ci fosse la tua. Quindi un po' tra pugni e sberle, è sicuramente una partita che vincerò per ricominciare. Dice così Claudia, ci siamo tradotti i testi per fare un breve riassunto. È un'estrema sintesi. Sì, un'estrema sintesi. Ma cosa è successo all'interno? Però è anche bella questa interpretazione. Sì. Ma cosa è successo con... È bello riscoprirle sempre in modo diverso. Sì. Cosa è successo con Same Stories, Claudia? Same Stories, che tra l'altro è il singolo che è uscito, il secondo singolo dell'album, di cui abbiamo girato anche un video molto divertente. Sì, con, poi parliamo anche di questo. Okay. Same Stories è la storia, sono sempre le stesse storie e sempre la stessa storia, nel senso che ognuno vive la quotidianità giorno per giorno, sempre anche allo stesso modo. E tutti vivono la stessa quotidianità, in questo senso. E ogni giorno bisogna un po' allenarsi e sforzarsi, perché ogni giorno c'è qualche sfida, piccola, grande, a seconda un po' delle situazioni. Ci si sveglia, suona la sveglia e si pensa, ah, nel frigorifero anche oggi non c'è il latte, già quello, ti alzi. Oppure se c'è scaduto. Se c'è scaduto, sempre sicuramente. Sì. E tutte queste piccole cose che già ti fanno, sommate tra loro, danno questo piccolo senso di quotidianità e di stare al mondo, ecco. Certo, e dove inizia lo stress? Dove inizia, sì. E come ci sono in queste piccole cose, ci sono anche in diverse cose che possono essere varie nella vita di ciascuno di noi. Ognuna di queste richiede sforzo, allenamento e abitudine, e in tutto questo poi quello che si vuole è avere qualcun altro, no? Abbiamo per ascoltato Claudia's on the Sofa, qui è il primo pezzo che abbiamo tratto da disco per presentare anche quella che è la band che suona con Claudia Ferretti da Brescia. Allora, chi sono le persone che suonano con te, Claudia? Vuoi la versione lunga o la versione corta? La versione, la versione a metà. A metà. Sì. Ci sono Marco Franzoni. Sì. Che è musicista della band e anche produttore e anche etichetta, coetichetta dell'album insieme a Gibilter Management. E quindi Marco Franzoni con Blue Femme Stereo Rec, sia studio di registrazione e etichetta. Come musicista con me fa un po' di tutto, per cui delle tastiere, pianoforti, chitarre elettriche, cori... Di tutto un po', perché noi siamo una band componibile, per cui abbiamo diverse formazioni a seconda della situazione. Certo, come si possono comporre i sofà, voglio dire, sì, con i vari angolari, eccetera, esatto, alla stessa maniera è la tua formazione. Esatto, per non fare le pubblicità delle marche, però sai, no. Ci sono quei mobili componibili che si possono ingrandire, rimpicciolire, però restano sempre nella loro funzionalità. C'è poi Francesco De Gennaro, che è il bassista, ma è il bassista della composizione ampia in elettrico, nella versione acustica varia dal basso alle armoniche, cori, perché sanno tutti fare un po' di tutto. Francesco, che avrebbe dovuto anche essere con noi, sì, stasera. Sì, purtroppo non è riuscito per un imprevisto, e anzi se sta sentendo, sì, in streaming lo saluto di cuore. Salutiamo Francesco. poi c'è Andrea. C'è Andrea Beni, che è il chitarrista degli Annie Hall e anche dei Le Menavec Lunette e anche di Claudia's on the Sofa. Ah, per perfetto, suona... quindi ha una triplice ruolo praticamente. Sì, e suona il chitarrista per eccellenza, proprio lui fa chitarre, okay, acustiche, steel guitar, che io adoro. Perché ovviamente essendo un po' di matrice americana quello che faccio, poi, ci voleva anche una steel guitar. Poi sentiamo che è un pezzo dove la steel guitar si sente molto bene. Sì, e poi dimentichiamo tutto. Massimiliano. No, non lo dimentichiamo. Beppe Facchetti, che è il batterista, che adesso ci accompagna, perché adesso siamo accompagnati appunto da... C'è stato un cambio di squadra. Sì. E quindi Beppe Facchetti è percussioni, perché anche anche lui ha questo duplice volto da batterista e anche percussionista, per cui in acustico suona anche il cajon e tutto quello annesso, che fa un po' di ritmo, di rumore, sì, sì, insomma. Bene. Visto che prima abbiamo parlato del video di Same Stories, volevo ricordare ancora con una persona che è Daniele Saladini, ecco, che è il fonico, che per me è proprio un membro della band. È essenziale, assolutamente. Veramente, e riesce a creare davvero parte di tutto quello che facciamo, anzi tutto quello che facciamo passa da lui, mm-hmm, e riacquisisce una nuova veste e la veste più opportuna proprio per ogni singolo live. Speriamo di essere all'altezza di Daniele Saludini nel, nel registrare poi alcuni pezzi che Claudia interpreterà nella versione acustica. Prima di sentire un pezzo in acustico, alcuni commenti sul video Same Stories, questo video che parla di muscoli, partite a scacchi, chitarre luminose, cocktail, insomma c'è un sacco da vedere all'interno, sì. Tanti muscoli comunque, femminili per di più. Sì, sì, perché sono quelli di Cinzia Chiarenza. Sì, perché io mi pensavo di trovarti te qua, davanti alla porta della radio della serie, qui non si entra con tanto di muscoli. In realtà non sono miei, ma sono di Cinzia Chiarenza, che è più volte campionessa del mondo di bodybuilding. E non avrei neanche mai pensato nella mia vita di poter conoscere la pluricampionessa del mondo di Miss Universo di bodybuilding. Andate su YouTube, andate a curiosare, chiamate Claudia is on the sofa e con il titolo Same Stories vi piomba questo video assolutamente divertente, merita di farsi un passaggio su internet. Perché parte proprio un po' anche dal senso, no, del testo, che è appunto l'addestrarsi e l'allenarsi a stare al mondo ogni giorno, no? Nella quotidianità, per cui l'allenamento proprio anche fisico, sì, e la vista proprio di tutti questi muscoli fisici che sono in realtà poi il nostro allenamento anche interiore. Bene, trattenendo il fiato per non far vedere la mia pancia, ti dico iniziamo con qualcosa di acustico, con la tua bellissima chitarra, ci ascoltiamo un pezzo dall'album Too Hot, se non sbaglio. Sì. Benissimo, allora l'ascoltiamo e poi torniamo qui a commentarlo insieme. Summertime, like to run across the cornfields, funny kids on the beach close to the sea, flowers and long grass can't resist under the sun. Fish and dragonflies gasp and whisper in the lake. Summertime, time for lovers and for goodbyes. Lots of miles between me and my best friend. Flowers and fresh grass always shine under the sky. No one is watching us. This is our brand new day. And the breath slows down in a hot day. Slow down in the hot air, and my heart returns to the time of my childhood. All the birds fly away to fresh new air. I will stay with you. Take my hands again. It's a promise I will take care of you. Blue time. Live. Blue time. Live. In una parola, wow, bellissima canzone questa. Grazie. Abbiamo ascoltato Claudia Is on the Sofa, che è qui con noi, come avrete sentito, per presentare il suo lavoro, sentito la Love Hunters, quindi 11 tracce densissime di melodia che alterneremo l'ascolto sia per voce e chitarra e poi anche tracce del disco per ascoltare anche l'effetto della band sui pezzi di Claudia. Benissimo, allora questo Too Hot racconta di un clima molto caldo dove tu sei lontana dagli amici, corri in mezzo ai campi e cosa succede ancora? È densa di emozioni questa, molto positiva la canzone. Sì, in realtà tutto parte dal fatto che d'estate, fino a qualche tempo fa, soffrivo molto un po' di allergia, di asma estiva, no? Per cui mi ha sempre fatto un po'... è sempre stata un po' una stagione un po' difficile per me, ecco. E un giorno ho pensato, ma... ci sono le quattro stagioni di Vivaldi, no? Eh sì, certo. E l'estate è molto molto afosa, triste la sua, perché per l'appunto soffriva di asma. E ha detto, anch'io voglio la mia canzone estiva, però lenta, però positiva. Per cui si intitola Too Hot, proprio come anche troppo caldo, ma è un troppo caldo che sia nostalgico, che è denso di calore umano, no? Per cui è estate, si gioca sulla spiaggia, si corre nei campi, ricorda questa amicizia, dice proprio molti chilometri tra me e il mio migliore amico, no? Per cui è a rappresentare proprio questo calore da lontano. Tu citi anche childhood, che sarebbe l'infanzia, la giovinezza, quando ancora c'è la mente rilassata, sì. Diciamo, no? Quindi ti piace tornare indietro, goderti questi, questi momenti. Sì, è proprio quella sensazione di questo tipo di nostalgia, di quando si torna bambini e si gioca col secchiale e la paletta, sì. D'estate. E ovviamente poi appunto finisce con questa parte dedicata appunto alle persone che ci stanno vicino o che ci sono state vicino anche nell'infanzia. Questi movimenti che rallentano nel ricordo, no? Di queste persone. Nel disco c'è un po' di piano, un accenno di piano nel pezzo, sì. appena accennato, sì. Volutamente accennato. Qui chiaramente il piano non c'è, l'hai fatto solo con la chitarra. Perché questo accenno di piano? Per qual motivo l'hai inserito? Sentivi il bisogno di dare una colorazione particolare al pezzo? È un Wurlitzer, tra l'altro. Ah, un Wurlitzer, sì. Sì, sì. Ma perché mentre in realtà è nato proprio perché mentre stavamo ascoltando questa registrazione che Questo pezzo è stato proprio registrato. Tutto in presa diretta l'hai registrato in ogni caso il disco. Abbiamo sottolineato, sì, tutto in presa diretta. Quindi come si usava una volta praticamente. E in questo caso proprio anche nelle altre canzoni le voci sono state reincise dopo. In questo caso invece proprio anche la voce, voce chitarra, così come l'ho fatta adesso. Al take 1, esatto, via. Magari non proprio il primo. Beh, insomma, però quasi il primo. Quasi il primo. Quasi il primo. Perché poi si è un po' pignoli quando si fanno i dischi. Certo. Però praticamente quasi immediato. Sì, sì. Insomma. In take diretto, voce e chitarra, e allora stavo un po' giocando col Wurlitzer e ho detto no, questa cosa ci deve stare perché dà quella sensazione un po' più eterea ancora, sì, no? Certo. Essendo già voce e chitarra, già molto spoglia, era uno strumento che permetteva di lasciarle etereo, e però di dare quelle piccole campanelle, come no, che arrivano e ti danno un po' di attenzione ancora anche lì, ti lasciano questa leggerezza in questa atmosfera calda, ma sì, non pesante esattamente, e poi un po' da frontiera, lasciano, possiamo dire da frontiera leggermente, qua in questo momento l'hai fatta come da frontiera americana. Sì, sì, a mio parere. Lo piano no, però qua sì, qua così sicuramente. Sì, sì, questa sì, è la classica sonorità, come tutto il disco di Claudia, da ascoltarsi con una bella decapotabile, una strada esattamente di campagna, via ai 30 all'ora, tanto per non per non farsi prendere dalla brezza troppo forte, e nello stesso tempo assaporare la musica che pian pianino ci lasciamo per strada. Magari con una Gran Torino. Una Gran Torino, esattamente. Cosa vuol dire condiviso e cucinato? Tu hai detto tutti i brani sono condivisi e cucinati. Sì. Cioè cosa vuol dire cucinato soprattutto? Condiviso possiamo capire, ma cucinato è interessante. A me e Flavio dobbiamo indagare il cucinato. Un ottimo dopo cena, esatto. Sì. Il cucinato proprio viene in mente perché... essendo Claudia is on the sofa, sì, sul divano li creo, no? Per certo, cui nel salotto da soli, col tappeto, il gatto, non ho il camino però ci starebbe bene, beh, anche quello, sì. Si crea e poi si passa alla cucina, ah, e allora c'è veramente il fermento, c'è proprio il fare insieme agli altri e con gli altri. E questi pezzi li abbiamo suonati molto anche dal vivo. Li avete provati prima dal vivo? Oh. Sì, un po' come si facevano una volta no? appunto, benissimo. Che si facevano, sì, live. Sì, esattamente, e poi si incidevano. Prendevano una loro forma, avevano, ognuno trovava già un suo perché. E anzi, ogni volta dal vivo li si cambia, li si riadatte, si trova la veste migliore, sia per presentarla agli altri che per vestirla addosso a sé. E poi li abbiamo suonati appunto nello studio, e lì in presa diretta, vabbè, a parte le voci che poi essendo un po' pignola, sì, preferisco rifarle. Ho capito. Allora ci ascoltiamo un altro pezzo da Love Hunters, questo disco di Claudia is on the sofa. Allora cosa possiamo ascoltare? Sì, eccolo qua, Old Jack per voi. There was nothing Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Un altro pezzo molto piacevole è questo di Claudius on the Sofa, si intitola Old Jack ed è tratto dal lavoro che si intitola Love Hunters, proprio di Claudius on the Sofa, e noi siamo fortunati perché abbiamo Claudia, senza il suo divano naturalmente, ma con la sua chitarra, che è venuta appunto a presentarci e ad approfondire il messaggio di questo disco. Ancora benvenuta Claudia, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie. Allora, questo Old Jack, che mi sa tanto da whisky. sì, è fatto anche un po' apposta per ricordare. Si parla anche di ubriachi all'interno di questa canzone, no? Se non ho capito male. Sì, perché dice tutti gli amanti dormono nei loro letti, sì. E gli ubriachi sono ubriachi in quell'orario in cui sì. Gli ubriachi sono ubriachi. Bene. Allora, noi sappiamo che questa era prettamente un'atmosfera americana, questa veramente, sì. Con questi suoni larghi, queste ballate molto molto folk, quelle che piacciono tanto a Maurizio, vero? Sì, Claudia. Eri emozionato nell'ascoltare questo, esatto. Pezzo. Claudia, prima, mentre il pezzo andava, ha detto che loro lo chiamano Johnny. Visto che ha portato il disco di Johnny Cash, lo chiamano Johnny, chiaramente un pezzo alla Johnny Cash, potremmo, sì, dire questo. Questo sì, è proprio un tributo. Un tributo assolutamente al grande Cash. Uomo in nero, chiaramente, sì. Man in Black. Che qualsiasi cosa canti, lui la canta con la sua voce, la sua emozione. E la rende unica, no? Ha fatto anche diversi dischi di cover. Certo, cover, che le ha ricostruite, vedi qua anche praticamente. Don, sì. Bono ha sempre detto che è fatta da lui, io non sono nessuno, quindi praticamente. Sì, sì, già, essere scelti per una cover di Johnny, fatta da Johnny Cash, cioè già lì vuol dire che hai fatto un pezzo fantastico. Vero. E rifatte come con la sua voce, lui potrebbe cantare davvero tutto. Fra Martino Campanaro. Tutto, poteva cantare qualsiasi cosa. Arriverebbe prima in tutte le classifiche a quel punto. Sì, e tratterebbe solo di trovare la traduzione. Ecco, sì, scusami. Se è un'idea solo mia, non lo so, perché nella mia mente lo paragono a quello che in italiano può essere anche il nostro De André, no? Per cui ha questo modo di cantare anche melodie, volendo semplici o ripetitive, sì. Ma con un'emozione, con una, è sempre molto interpretazione, viscerale, sì, sì, calda, profonda, sì. E unica, che è veramente impossibile riuscire a farle come le farebbero loro. Bene, quindi è uno dei tuoi artisti di riferimento importanti, uno dei primi a quanto ho capito, in cima alla piramide, si può dire. Ce ne sono tanti in cima alla piramide per aspetti diversi, però da lui si impara veramente tanto, sia a livello di interpretazione che anche di costruzione musicale, no? Perché poi... Sì, perché è anche un autore Johnny Cash, non soltanto un cantante, bisogna sottolineare, sì, anche questo, ha scritto tantissimi pezzi. Sì, sì, e i riferimenti poi per chi compone anche oltre a scrivere ci sono magari per alcuni artisti più nell'ambito di interpretazione, per altri proprio anche di composizione. Certo. e quindi lui ha questo doppio aspetto. Sì. Esatto. Bene, ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo piacevolmente conversando con Claudia, protagonista di questa trasmissione per i Claudia is on the sofa, ecco qua. Love Hunters si intitola il suo lavoro. E vorremmo ascoltare ancora qualcosa del tuo lavoro. Certamente. Cosa ci proponi in acustico? Tonight. Benissimo. Tonight I will tell to the silence the love that I feel for you. I'll pretend not to hear the first which cries your name. I'll take in my dream the best part of me so he could the memory that I have of you. Oh, someone has planted a seed in the my heart is not me. I want to see you, but I can't. I need time, hard work and pain to approve. Blue time. Live. Blue time. Live. È quasi un peccato mettere questa sigla ritmata quando ci siamo così rilassati on the sofa ascoltando questa Tonight. È anche un po' Pantera Rosa, no? Sì, sì, sì, sì, molto. Sì, sì, la sigla adesso. Ah, sì, sì, indubbiamente. Vabbè, chiediamo scusa. Vabbè, comunque ci voleva perché, anzi, se volete approfittarne, adesso Claudia vi dirà anche come entrare in possesso del disco, perché so che vi è piaciuto davvero tanto e abbiamo ascoltato solo 4 canzoni, per cui chissà come saranno le altre. Allora Claudia, come si fa ad entrare in possesso del disco? Ci sono diversi modi. Primo, su iTunes si può trovare, e quindi prendere online su iTunes. Si può prendere sempre, comprare online dal sito che è www.claudiasandesofa.com e quindi acquistare dal negozio online. Oppure si può venire a vedere un nostro concerto e avere un disco comprato direttamente da noi o anche in negozio. Si può trovare direttamente anche nei negozi, ci sono negli Fnac o in diversi negozi. Comunque si dice sempre nei migliori negozi nei di migliori dischi. Negozi. Se qualche negozio di dischi non ce l'ha, non è tra i migliori. Bisogna ordinarlo. Vabbè, comunque, se non si trova si ordina di solito. Certamente. È comunque distribuito, quindi certo, si può ordinare anche nel negozio. Benissimo. Mi metto una cosa, Flavio, non so se sei d'accordo. Il rallentamento, questo pezzo che è molto rallentato, sì. due riferimenti, Yanghiano assolutamente, ma anche Margot Timmins dei Cowboy Junkies, secondo me. Ma vorrei aggiungere anche un altro, allora Maurizio, dimmi, se mi permetti, dimmi. Uno molto, molto più vicino al terra terra di qualche ascoltatore, nel senso che non tutti sono preparatissimi come lo sei tu, come lo sono moltissimi, come anche lo sei te. Io citerei anche una Norah Jones. Cosa dici? Ce la metterei proprio lì, tanto per dare, per dare stare, un sì. riferimento. Anzi, prossima volta che ospiteremo Norah Jones, esatto, lo chiediamo. C'è la canti molto come Claudia, come Claudia, esatto. È lei che mi copia. Esattamente. No, Margot Team sì, secondo me, soprattutto quei pezzi molto rallentati, molto lenti, quindi dal primo album, sai, Trinity Session, proprio l'inizio di carriera, aveva quel modo di fare, qualcuno dice molto vicino a Young, d'accordo, però quel modo di rallentare, tu hai rallentato molto, chiaramente qui siamo in dimensione acustica, volutamente hai rallentato, a me è venuta quella impressione là, ha dato quella impressione là, non so, potresti aggiungere nei tuoi preferiti i Cowboys Junkies, secondo me. Ci sono già. Beh, mi fa molto piacere di questo. Altre cose, vale la pena ricordare cosa è successo questa sera. Non succede spesso. Claudia si è portata appresso i dischi che non vorrebbe mai lasciare a casa. E quindi vorremmo già conoscere quelli che sono i titoli della musica che ascolti durante i tuoi viaggi, perché anche da Brescia per arrivare fino da noi ti sei fatto un viaggio, seppur magari 3 CD te li sei ascoltati. No, in realtà c'era molta nebbia e per venire in qua ho fatto un ascolto che è proprio è un CD che è arrivato ieri, quindi lo sto ascoltando proprio in questi giorni, che è lontano da quello che ho portato stasera, ma perché penso sia indispensabile avere sempre ascolti completamente diversi tra loro. Sì. E quindi quello che ho ascoltato stasera in macchina e ci stava tantissimo era Niccolò Fabi. Ah, benissimo, quindi col suo ultimo lavoro. Col suo ultimo lavoro e con la nebbia, l'autostrada proprio ci stava. Ci sta bene, quindi consigliato per i tragitti in autostrada, quello di Niccolò Fabi, mentre abbiamo ricordato che il tuo si può ascoltare proprio in campagna con la decapottabile. Sì. Poi... Io il mio non lo ascolto in macchina perché l'ho già ascoltato tantissime volte. Lo conosci in memoria. Me lo suono, me lo canto. Quindi è come umile, non fa pubblicità a se stessa in questo no, caso. No, ho bisogno sì. di ascoltare altri, certo. Devo prendere dagli altri. Certo. Qui ho portato quello sì. che cita un momento quei bellissimi dischi che hai portato. Fai sentire sera. Il rumore delle copertine. Ecco qua. Sì. Beh, c'è ovviamente Bonnie Prince Billy. Perché Bonnie Prince Billy, cara Claudia? Perché? Il perché? Non lo so. Non lo sai. Di preciso, però l'ho ascoltato un giorno e mi è piaciuto tantissimo. Immediatamente, ti ha catturato immediatamente. E da lì ho iniziato a ascoltarlo. Ha fatto tante cose anche, lui, tante cose variate, sì, complesse, anche facili, difficili. Una sua matrice. Con un certo stile, esattamente. Sempre lui. Molto definita, sì. E anche dei suoi live, addirittura ce n'era uno in cui si era presentato lui, voce chitarra, più un batterista, e hanno fatto tutto questo concerto, loro due, ma fantastico, perché anche lui è uno che con la voce sa incantare e che sa gestire molto bene proprio la composizione delle sue canzoni. E quindi ha queste sempre queste atmosfere che, se in alcuni dischi sono magari più... anche un po' più country, sì. In altri sono più rilassate, questo che ho portato è The Letting Go, per cui questo è uno di quelli davvero più rilassati, con tanti cori femminili anche, ma ce ne sono anche Superwolf, sì. Che è bellissimo, un pochino più tagliente, sì. Per certe o più, cose. Più diretto, più ruspante, se posso sì. dire così. E lui, ecco, questo modo di scrivere, di cantare che proprio mi incanta. Poi ci sono un disco che ho consumato, se fosse una cassettina magnetica si sarebbe smagnetizzata, oppure sai quando si sentivano poi solo da un sì, lato, da un lato solo. Che registravano con la batteria destra, tutta destra, e voce tutta sinistra, poi si smagnetizzavano e non sentivi più parte della canzone. Oppure servivano per i karaoke in quel caso, sì. Se sulla parte musicale. Sì, sì. Ecco, fosse stata una sì. cassetta magnetica avrebbe fatto quella fine, sì. I Fleet Foxes. Ah, i Foxes, bellissimo. Che ho recentemente consumato. Prendiamo nota. sì, e loro sono fantastici. Sì. Tutti cantano tutti. Questi cori proprio pieni, densi e vivi. E sono fantastici. Proprio anche delle canzoni che avvolgono, che poi ti sorprendono, e con questi cori che di colpo partono dal primo essere soffusi, poi partono i cori e ti incantano. Benissimo, hai portato un sacco di dischi, quindi sì. Ti sei portato tutto lo scaffale a questo punto. Sì. Poi Raden Adams, ecco lui. E quindi fortuna che noi avevamo fortuna che noi avevamo il tuo disco, Claudia, altrimenti saremmo stati spacciati, avremmo parlato d'altro questa sera. Benissimo, allora ne ascoltiamo un altro pezzo, questa volta ascoltiamo proprio il pezzo che dà il nome all'intero lavoro, e quindi diamo spazio a Love Hunters. Maurizio, Sì, no, a proposito della pantera rosa, dice la pantera rosa. Veramente ci lasciamo trasportare da, sì, assolutamente. Da questi pezzi. Allora, molto yanghiano questo cazzo. Sì, molto yanghiano, nel senso positivo del termine. Certo. Calo, permettimi, Maurizio, c'è anche qualcosa. Gilmour, lo sentivi in sottofondo? No, Gilmour no, secondo me. Più Young. Io vedo, sento quando suona Claudia, sento molto nel Young, nel senso positivo del termine, sì. Assolutamente. Gilmour no, non so, può darsi che qualche momento, qualche flash, può darsi che ci sia anche Gilmour. Ma anche Gilmour può essere yanghiano all'inizio di carriera, chi lo sa, non so. Visto che la fase di nascita fra i Pink Floyd e Neil Young, siamo all'inizio degli anni 60. Quindi benissimo, ma parliamo di questi cacciatori d'amore. Allora, questi love hunters descritti all'interno del testo in inglese di Claudia's on the Sofa, questi personaggi che sono sempre soli e per questo sono chiamati cacciatori d'amore, perché cercano l'amore dappertutto. Non è, diciamo che non è detto che siano per forza da soli. Si può essere anche accompagnati da amici, da un compagno, dalla famiglia, e anzi è proprio questa caccia di affetto in generale, no? Non di amore per forza uomo-donna, ma di affettività proprio da parte davvero di amici, di famiglia, di colleghi di lavoro, può essere anche quello, o anche di conoscenze che si fanno anche magari semplicemente al bar. Perché un po' tutte le tracce di questo disco nei testi raccontano di storie, no? È una raccolta di storie, come appunto come Same Stories, no? La prima canzone che abbiamo sentito, è proprio una raccolta di tutte queste storie che incontro sia su di me, che nelle persone che trovo vicino a me, ma che anche trovo in persone che non conosco e di cui intravedo magari una storia e che mi piace romanzare un po' e raccontare in nuova veste. Quindi questa caccia d'affetto è proprio sempre questa veste un po' da bosco, no? Del cacciatore preistorico che con tanto che di clava, sì arco e frecce, che va a proprio a catturare quello che è l'affetto delle altre persone, che di cui tutti un po' abbiamo bisogno. Se non è affetto, sono attenzioni. Senti, abbiamo scritto nel nostro sito per presentarti, ma l'abbiamo preso informazioni da molti altri raccomandati siti che offrono notizie sul tuo nome, sul nome di Claudia on the Sofa, che tu hai aperto numerosi concerti di artisti di un certo livello, quindi vuol dire che sei conosciuta tra gli addetti ai lavori, no? In questo caso. Ho avuto questa fortuna, sì, di poter aprire dei grandi artisti che sono molto belli da vedere dal vivo, ma è ancora più bello riuscire a viverli in tutta quella che è un po' la giornata di quando di musicista nella giornata del concerto, no? Certo, noi diciamo che la tua atmosfera è prettamente americana, però sì. Hai aperto concerti di gente tutt'altro che americana. Ad esempio c'è un australiano, Hugo Race. Sì, Hugo Race, che saluto anzi di cuore. E poi c'è anche Scott Matthew, che anche lui in realtà è australiano, però vive in Inghilterra, sì. E Richmond Fontaine invece, loro sono americani, sono, sì, gli unici proprio americani. Poi c'è stata anche Polly Polisma, certo. Lei è inglese. È bravissima. Giovanissima peraltro, no? Quindi penso sia dal 76, non vorrei sbagliarmi. Sì. È veramente, tra l'altro, dolcissima, simpaticissima, una persona fantastica. E poi aperto anche qui italiani, anche sì, italiani. Sì. Anche italiani, come Marco Parente, Cesare Basile, Paolo Benvenu, De Niro. Sì. De Niro, esatto, sì, che abbiamo citato prima, parlavamo io e Claudia a microfono spento, il De Niro all'inizio di carriera, proprio quando Davide Combusti. Esattamente, proprio, sì. Però era uno sconosciuto si che chiama così, sì. Il padre era molto famoso per il suo cognome, no? Era un strumentista. Sì, no? Mi pare di sì. Sì, sì, abbastanza importante. È abbastanza importante. Così vado un po' rimembrando. E è bello proprio passare parte della giornata con loro e vedere come lavorano proprio, perché... E come lavorano gli inglesi o gli americani rispetto agli italiani, Claudio? Ah. Nel senso positivo. Allora, con gli italiani con cui... Con cui hai lavorato, dividere il palco, sinceramente non c'è questa grande differenza, perché sono tutti dei grandissimi professionisti. È proprio la differenza che c'è tra un certo tipo di musicista ad altri, è proprio questa professionalità, arrivare, fare le proprie cose, scaricare, o chi per loro, cioè di solito no, scaricano loro, non ho ancora aperto a chi si fa scaricare le cose. Lasciamo lavorare gli uomini. Ah, dimmi. Sì, no, non ce l'ho ancora fatta. Avevano un tour bus, ma non avevano chi gli scaricava. Ah, bene. E, arrivano, fanno e si divertono nel fare i suoni, nel stare sul palco, dare sempre il massimo. E questi sono tutti professionisti con cui ho potuto dividere il palco, proprio in qualsiasi situazione, fare quello che devi fare perché ti piace farlo. E questo è la musica, cioè se vale per qualsiasi lavoro, vale ancora di più per un lavoro come quello del musicista. Certo, no? Bene. In cui devi condividere e il tuo lavoro è proprio fare arrivare agli altri quello che stai facendo. Ricordiamo ai nostri ascoltatori anche la nostra pagina su Facebook, risponde al nome di Blue Radio Veneto Rock Wave. All'interno di questa pagina è stata postata da poco anche una foto di Claudia on the Sofa durante un'interpretazione, e poi Claudia confermerà e firmerà sotto per la liberatoria. Sto scherzando, ricordiamo che poi questa diretta sarà comunque, diventerà una registrata, sarà inserita all'interno dei nostri archivi sonori, per cui ancora risentibile per chi vorrà farlo. All'interno del nostro sito poi tra qualche giorno compariranno anche le fotografie per come dire, il contributo diciamo video di questa serata, anche se sa che in radio le canzoni assumono un'atmosfera che non è pari a quello che può offrire la televisione. Ricordiamo chi ha scattato la foto, che sì, è il nostro direttore artistico, è Alberto, che mi è levo arrivato. Tanto di cuffie di fronte ad Alberto. Esattamente. Che salutiamo. Che salutiamo, certo. Ricordiamo anzi che alle 22:30 lui ci farà compagnia con Rock Wave, l'onda del rock, con la sua classifica fino alle 24. Ma continuiamo a parlare di Claudia is on the Sofa. Anzi, più di continuare a parlare, la facciamo suonare. Questa volta c'è una canzone forse dedicata a un ragazzo. No. Un po' ai boys. Boys. Non quelli che cantava anche Sabrina Salerno a quel tempo, no. Boys. No, boy. E anche durante il live mi piace dire e ricordare che appunto questa è dedicata ai boys. E infatti è una canzone anche un po' triste. Ascoltiamola, mettiamoci seduti comodi, ascoltiamo questa canzone triste. Claudia's on the Sofa, Boy da Love Hunters. Thank you. down on that he just make me feel sure of my choice. Goodbye. No one can understand. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Che tristezza, quasi bacchiana, quasi alla molto, Jeff Buckley, molto Jeff Buckley. Nel senso positivo, ma molto sofferta, molto pathos ci hai dato. Sì. Molto. Tristezza, come direbbe Maurizio, in senso positivo. Sì, sì, sempre, perché musicalmente è sempre positivo. Si può è una sofferenza in questo genere. In questo termine, comunque. In senso positivo. Sì. Poi la canzone che abbiamo incontrato adesso in versione acustica, vi possiamo assicurare che lo stesso pathos ce l'ha anche nella versione CD Love Hunters. Abbiamo ricordato prima come far per entrare in possesso del disco in maniera legale, mi raccomando, e anche visitando il sito internet, sì, di Claudia is on the sofa, che è www.claudiaisonthesofa.com. Benissimo, e poi ci sono anche molti altri modi per entrare in possesso del formato digitale di questo disco, e anche andare su internet, curiosare tra i video di, sì, YouTube, dove è presente il video citato prima, che era Same Stories, sì, così vi vedete, vi ascoltate la canzone Same Stories e vi vedete un po' questa avventura all'interno con la muscolosa anche protagonista. E c'è anche un piccolo video che avevamo fatto proprio di Boy, mm-hmm, e girato ormai, sai, con gli smartphone si può fare un po' di tutto. E c'è quella inquadratura un po' particolare, un po' grigiotta, no? Sì, molto, fa molto anni 70. Sì, perché eravamo in concerto sulle Riviera Romagnola, era primavera, quindi non ancora estate, no? Quindi tutta questa riviera con gli ombrelloni ancora chiusi, però abbastanza caldo per prendere un po' il sole durante il pomeriggio tra una data e l'altra. E una sera dopo un concerto siamo rimasti su questo bagno pubblico in cui abbiamo fatto il concerto. E lì ci è venuta l'ispirazione per fare il video di Boy, quindi l'altra faccia un po' nostalgica, ecco, la The Dark Side of the Summer la chiamo. Ah, ok, benissimo. The Dark Side della Riviera, quindi il lato scuro. E abbiamo fatto questo piccolo video fatto in casa. Come hai suonato un po' in modo particolare la chitarra in questo Boy? Hai suonato quasi percotendola. Ma volevo anzi cogliere l'occasione per presentare. Prendiamo la chitarra. Emilou Reeves. Emilou. È il suo nome, Emilou Reeves. Emilou perché è un modello dedicato a Emilou Harris. È un po' più piccolo del normale perché deve adattarsi alle mie dimensioni. Ribs perché significa costole. E questo perché la prima chitarra che mi comprai un po' più seria la comprai con dei soldi guadagnati con un'assicurazione. Quando mi ruppi tre costole. Ah, vedi. E lì poi ho venduto questa, era una Stratocaster, poi l'ho venduta e alla fine con sempre questi soldi che si rimandano, no, da una chitarra all'altra, finalmente è arrivata all'acustica. Si è passati dall'elettrica a questa acustica di cui sono veramente molto felice. Anche visivamente, e poi ci sono dei ricami particolari. Sì, no, che diventano proprio dei compagni di viaggio. Certo, no? La chitarra è un unicum dopo, come musicista, sempre stato. Maurizio, abbiamo citato anche Emilou Harris, che è quella bionda cantautrice inglese di Birmingham, classe 1947, quindi non più giovincella, ma che ci ha regalato delle grandi emozioni. Ormai americana d'adozione da sempre, praticamente. Sì. Poi ricordiamo anche Gran Parson, che deve essere un suo affine molto diretto, no? Certo. È stata la compagna, anche la ispiratrice di Gran Parson. Sì. Benissimo, che è stato, tra altre cose, ricordiamolo, anche il fondatore, un po', se vogliamo, il padre del country rock. Esattamente. Ecco, chiamiamolo così, con chitarra, piano. Anzi, ha fondato anche quel country, diciamo, chiamiamolo così, alternativo. Certo. Benissimo. Allora, 22:10 minuti primi, sempre all'interno di Blue Time Live, sempre con Claudia Is on the Sofa. Ancora una canzone in acustico che ci vuole regalare Claudia. A questo punto ci ascoltiamo If Jesus. Oh yeah. Benissimo. È il tempo di mettere il barré ed eccola qua per voi, per noi. Claudia Is on the Sofa. If Jesus was a doctor, he would make me sleep, leaving my heart free. If Jesus was a doctor, conductor. Your word make me sleep in my heart free. Appena messo il mi piace su una delle foto scattate da Alberto Prisco all'interno del nostro Blu Radio Veneto Rock Wave. Claudia is on the sofa a suonare per noi con la sua chitarra per presentarci questo suo lavoro che è da maggio che sta marciando, si intitola Love Hunters. Ci siamo ascoltati questa If Jesus, questo tormento forse d'amore dove si invoca a Gesù e si dice: ma se Gesù fosse un dottore mi farebbe dormire libera, rilassatamente, senza avere pene né pensieri. È un po' così questa breve parafrasi della canzone. Esattamente così, sì. Bene, ricordiamo che anche all'interno del libricino che ci dà Claudia is on the sofa, proprio a corredo del CD, ci sono anche i testi che vale la pena seguire e anche delle foto davvero particolari, perché tutte sfocate, voglio dire, sì. Nel senso, o c'è la pellicola scaduta o c'è un fotografo. Sto scherzando, effettivamente no. Sono proprio fotografie d'effetto che regalano anche un lato intimista del tutto. Sì, sì, sì. Hanno un po' questa doppia veste, alcune un po' fatte in studio, anzi sono proprio allo studio in cui abbiamo registrato quelle... un po', forse quelle fuori fuoco, sì. Però è molto bello, molto grande. Sì, sì. E quindi c'è sia questa veste in studio che questa veste all'aperto, che era una cascina, che era la nostra vecchia sala prove, adesso abbiamo cambiato. Sì. Ho preso freddissimo a fare quelle foto. però sei sempre sorridente, come però, questa sera. Sì, sì. Però erano in questa cascina ed era un'ambientazione, erano le due ambientazioni più adatte, secondo noi, a rappresentare quella che è l'atmosfera del disco, no? Per cui questa campagna Che anche la campagna un po', anche questa nostra campagna italiana, un sì. po' della pianura padana, soprattutto per me ricorda, in qualche modo ci riporta agli Stati Uniti. Lui, certo, qualcuno ha scritto il Mississippi, c'è il Mississippi, c'è a Brescia, c'è, ma c'è moltissimo, nel senso, idealmente. Sì. Pensate, io penso sempre ai Western che venivano a fare gli spaghetti Western, no? Sì. O anche addirittura registi americani che venivano a girare delle scene in Italia, certo, non dico in pianura padana, per carità. Sì, certo. Però in America avevano pochissimo spazio, effettivamente, no? No. Però ci sono queste cose, no? Che ci sono delle atmosfere richiamate. E per cui diversi artisti, anche italiani e anche bresciani, io colgo l'occasione per sottolineare Brescia, così c'è l'atmosfera così bella a Brescia, tanti gruppi che suonano, sì, tanta gente, per ricordare l'atmosfera bresciana. E anche, proprio visto che si parla di atmosfere country, questa volta però in italiano, Manuele Zamboni, che certo. Lo voglio ricordare. È veramente un artista che mi sta a cuore. Manuele Zamboni, com'è? Che tra le altre cose, sai, è venuto anche lui a trovarsi, a proporsi le sue canzoni. Sì. Abbiamo gradito molto la sua visita. Ho registrato anche un paio di cori sul suo disco, un paio di voci femminili. Alcune sono di Ombretta Ghidini, sì, che suona nelle Fricche Mermaids, è suonato nelle Men, avec les lunettes. Suona con loro e le altre sono mie. È stato un grandissimo piacere poter lavorare con lui in italiano, tra l'altro. Quindi non si canta sempre solo in inglese. C'è la possibilità di ascoltare ancora una Claudia Is on the Sofa nella versione italiana prossimamente? Quali sono i tuoi progetti? C'era qualche... Uscirà? Ci stai pensando? No, non so se si può dire, penso di sì. Casomai questa la tagliamo poi. Al massimo, ecco, adesso in diretta, poi quando non la fate risentire nelle registrazioni, però dovrebbe uscire per The Observer di Rock Hall, che ci ha seguito finora per tutto l'anno, una compilation di brani di... tutti gli artisti che hanno seguito, ognuno fa la cover di un altro. Il giochino è questo. E in questa occasione farò una cover in italiano. Quindi ci sarà occasione di sentire anche una canzone in italiano. Benissimo, nel frattempo noi ci ascoltiamo ancora qualcosa del tuo lavoro da Love Hunters. Questa volta andiamo a prendere la traccia numero 11, che è proprio il finale del disco, si intitola Apple Tree, e ci mangiamo una mela ascoltando questa bella canzone di Claudia Is on the Sofa. Near me. Surface the fool of my wishes. I don't want to miss you. That's what you said. I'm the gift of my. Claudia is on the sofa con Love Hunters, questo è il titolo del suo lavoro. Apple Tree, una canzone dedicata a tutte le canzoni scritte e mai suonate in questo caso, come dice l'inizio del pezzo. Allora, questo Apple Tree corrisponde a un albero delle tue idee, dove ogni idea la prendi come una mela. È l'albero dei desideri. Mm. E quindi sono proprio tutte le storie scritte, mai lette, le canzoni mai cantate e tutte quelle le parti di vita che ci si immagina e però non si vive. E a volte forse è anche più bella così, perché resta non vissuta, no? E certo, restano in my dreams, come dici tu alla fine, no? Quindi nei sogni. Poi Claudio voleva ricordare come è nato questo pezzo in modo molto particolare, la costruzione, mi hai spiegato mentre il pezzo andava, è giusto che devono saperlo tutti adesso, puoi sì, andare. Perché qua c'è tutta una chiacchierata continua, un'ora e mezza di trasmissione, per i nostri ascoltatori ci ascoltano i pezzi e naturalmente poi si ascolta anche Claudio dal vivo, ma mentre stanno andando le canzoni, prima ne abbiamo ascoltate 4 in totale dal disco, c'è tutto un continuo chiacchierare, parlare, informazioni continue sul tema musicale, per cui noi siamo distrattissimi di fronte a quelli che sono i pezzi. Fortuna che ci siamo ascoltati prima, voglio dire. Eh beh, boh, c'è anche chi non li ascolta prima, li ascolta al momento con me in diretta. Sì, certo. Sì, certo. Capita anche quello. Ci sono anche gli speaker di quel livello, comunque vabbè, li salutiamo perché comunque no, fanno qualcosa di buono per la musica. È divertente anche quello, perché sì, poi tanto gli piace, restano stupiti al momento, sì, ed sì, è sì, bellissimo. Sì. Dicono, scusa, cosa ho ascoltato? Bene. No, è proprio... questo pezzo, ma un po' si lega anche al fatto di cucinare insieme noi i brani con la band e anche con la produzione. Per cui questo è un esempio proprio di come sono nati, di come nascono un po' tutti i pezzi. Arpeggio e voce chitarra, no? E da lì piano piano si inizia a lavorare con la band e con la produzione in studio, che in questo caso è stata di Marco Franzoni. E per cui si arriva a dare una veste, bisogna ecco avere la prontezza per vedere le proprie creature rigirarsi in modo un po' diverso da quello che ci si aspettava o da come ci se le era immaginate, e anzi divertirsi in cucina facendo sì, questo fin tanto che non c'è qualcuno che dice the supper is ready. Sì, in questo caso. È pronta, e tipo in questa canzone ci sono anche, non so, delle chitarre, dei suoni effettate, mandate al contrario, e lasciate da sole, ci sono tante cose al suo interno che gli danno una veste che io da sola non avrei immaginato. E volevo, prima che so che tra un po' si arriva ai saluti, ringraziare di nuovo tutti e anche i Gibilterra Management che mi supportano in tutto questo, che... e Michele Necchini di Verona, e magari può, è veneto, quindi se magari ascolta. Salutiamo, ciao. E anche sì, Luca Verdini e di nuovo tutto il Sofa e MA9 che è appunto la promozione e Locusta come booking. E tutti, non so se sto dimenticando. Devi ricordare qualcuno. Steve Wynn, devi ricordare la data. Ah, e la data è Steve Wynn, sì, perché sì, apriremo sì, a Steve Wynn l'8 febbraio, sì, a nelle in provincia di Bergamo, non ricordo dove. Quindi aprirai a Steve Wynn praticamente. Sì, apriremo a Steve Wynn. Mica poco, mica poco. Bene, bene. Sì. Allora, il tempo è come sempre tiranno, lo diceva anche Attila qualche tempo fa, e noi dobbiamo salutarci per dare la linea poi a Rock Wave, l'onda del rock assieme ad Alberto Prisco, però prima ci fai una canzone. Facciamo un ultimo cappellino su quella che è la canzone che andremo ad ascoltare, che si intitola Track. Track. Sono appunto proprio storie riviste e rivisitate, magari storie tristi in modo allegro, come tutte le cose possono cambiare, dipende solo dal punto di vista da cui li guardi, no? Benissimo. Detta proprio in 2 minuti. Detta proprio in 2 minuti. Comunque ascoltiamo anche il testo, perché c'è un parla anche di un ragazzo che arriva con i propri bagagli e anche con le scarpe, quelle da bicicletta, quindi sì, con i tacchetti che fanno tac tac tac tac tac tac, sì, no? Bellissimo da ascoltare. È in una stazione, per quello che è track, sì, sì, sì, la traccia musicale che è il binario del treno. Benissimo, allora ci ha fatto molto piacere parlare con Claudia Ferretti per Claudia's on the Sofa, questo progetto, questo nome anche del gruppo, quindi salutiamo anche i componenti che con te vengono e vanno a suonare. Li aspettiamo tutti qua la prossima volta, certo, mi raccomando. Benissimo. Ah sì, mi raccomando. Sì. Allora, Love Hunters, ricordiamo grazie ancora a voi una volta, claudiasonthesofa.it per... Come? com? Sì. Ecco, punto, scusa, punto com per andare a vedere ancora qualcosa di Claudia's on the Sofa e quindi per conoscere sempre meglio la musica. E allora, passiamo ai saluti, Claudia. Saluto, innanzitutto saluto e ringrazio tutti voi, tutte Blu Radio, tutti quelli che hanno organizzato, il vostro direttore e soprattutto chi ci sta ascoltando. Benissimo, allora abbiamo detto tutto, microfoni aperti a Claudia's on the Sofa per l'ultima sua traccia, appunto track. E quindi Maurizio, abbiamo detto tutto da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, il solito grande e caloroso ciao, e visto che è l'ultima puntata prima delle feste natalizie, perlomeno per me, dico anche buon Natale agli ascoltatori. Certo. Bene. Allora a presto e ancora buona musica con Claudia's on the Sofa. Grazie Claudia ancora. Grazie ciao. A voi. Comes along with all his bags, no love, no words, no arguments. Clip clap with his shoes, used for battery. He comes, he stays, he goes away. What about your story? What about the truth? What about you? He came so tired and had blue cheeks. She looks, she turns, she moves out. She goes.